get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87 900 di Radio Onda Rossa. Something's got a hold on me, yeah. Buonasera. Buonasera a tutte e benvenute alla nostra 317esima puntata. In studio siamo io che sono Stefania, Lucilla e Rosina. E qui con noi abbiamo anche delle ospiti. Con loro vogliamo affrontare il tema al centro della trasmissione di oggi, che abbiamo intitolato A casa del lupo cattivo. Già il titolo può essere indicativo di ciò che affronteremo stasera. Ma vorremmo sottolineare, grazie al contributo delle nostre ospiti, quanto questo problema incida sulla vita delle donne, grandi o piccole che siano. Ascoltiamo ora un brano musicale e poi entreremo nel vivo della trasmissione. Dalla voce di Paola Turci ascoltiamo Volo così. Mi sembra di volare, che se sono ancora qui, e scusa se ti faccio male, se me ne vado via così, e mi riprendo i sogni, le speranze, le illusioni, tutto quel che sai di me. Comincio a vivere e volo così, a braccia aperte tra le nuvole, volo così, nell'aria tersa senza limiti, volo nell'anima di queste notti tenere, volo così, perché è così che devo vivere. Adesso no, ti prego non parlare, non mi cadere in questo blu. Ho bisogno di certezze, di sognare un po' di più. E all'improvviso il vento smuove nuove sensazioni che non so più distinguere, e all'improvviso non resisto più alle tentazioni e ricomincio a vivere. E volo così, Allora, buonasera a tutte. Come già vi ha anticipato Stefania, dal titolo della trasmissione alla casa, nella casa del lupo cattivo, questa sera parliamo di violenza sulle minori e in particolar modo vi vogliamo raccontare una storia. Abbiamo con noi tre ospiti. Una persona è Cinzia, che poi parlerà e si presenterà, poi Antonella Petricone di Be Free, che è una nostra vecchia conoscenza, non in termini di età naturalmente, e poi l'avvocata Carla Quinto, che è qui con noi per illustrarci alcuni aspetti dell'iter diciamo giudiziario in caso di e diciamo poi cosa. Vogliamo dire veramente tre cose, fare tre riflessioni con voi circa la vicenda di cui poi sentirete da Cinzia un breve racconto, relativamente però a degli ingredienti che, pur essendo le storie diverse, si mescolano sempre gli stessi e provocano sempre diciamo dei comuni denominatori nelle storie che riguardano le donne e in particolar modo nelle storie che riguardano le bambine o le giovani donne, le giovanissime donne. Parliamo appunto di minori. Allora, che cosa? Intanto il comportamento delle altre donne che ahimè, sia che si trovino nella posizione di cura e quindi di dover tutelare la loro vita o la vita di qualcuno che è affidata a loro, hanno poi un tipo di comportamento inadeguato ad affrontare la situazione stessa. Inadeguato perché c'è un problema di ordine culturale che porta le donne a ricoprire un ruolo di subalternità nei confronti di un sistema e che quindi le porta a fare dei passi che sono sempre quelli, appunto quell'ingrediente ha sempre quello stesso sapore. E in altri casi le stesse donne hanno un ruolo di connivenza. Noi poi parlavamo anche in termini più forti, ma poi Antonella ci ha anche suggerito di utilizzare questo termine, forse più appropriato, perché appunto le donne si trovano comunque in una posizione di subalternità rispetto al sistema e agli uomini, che hanno un ruolo difensivo, che occupano una posizione difensiva nei confronti degli uomini. Gli uomini che sono degli stupratori. Tutti? Beh, la stragrande maggioranza. Poi l'altro elemento sul quale noi vogliamo aprire una riflessione, ma è uno spunto per l'appunto, cioè non è una riflessione che ha un inizio e una fine nel nostro parlare stasera con voi e tra di noi, e che è relativo all'iter burocratico che una minore che incappa in una storia di violenza da parte di un adulto che ha una posizione di tutoraggio nei suoi confronti, per esempio, ecco, l'iter burocratico che per proteggere o comunque per rendere giustizia alla minore si deve percorrere è lungo, è tortuoso e difficilmente si individuano i punti sui quali muoversi, sia da parte della polizia che da parte della giustizia, che sembrano inadeguate e con i passaggi estremamente lunghi e farraginosi, per cui ti ritrovi immersa in una rete, sei dentro una rete e non sai bene come uscirne. Ancora, l'inadeguatezza e la mancanza di preparazione delle strutture pubbliche, come ad esempio i consultori. Esistono dei consultori per adolescenti? Sì, ma sono adeguati ad accogliere problemi? Pare di no, poi magari sentirete dalla storia. E poi in questo, quindi, la domanda che noi ci facciamo è: ma i telefilm americani che vediamo, dove ci sono le squadre speciali per questo, quell'altro, eccetera, nella realtà ci sono? In America non lo sappiamo, negli Stati Uniti forse, in Italia no. In Italia non c'è nessuna struttura di questo genere, non ci sono persone preparate all'uopo, come si potrebbe dire in termini più, non so, aulici. Non sono preparate. E quindi non c'è un'attenzione e una preparazione del personale, sia esso di polizia, sia esso dei servizi sociali, e via discorrendo, ma anche degli ospedali, mi viene da dire, dove possono afferire le persone che o le bambine o le donne che si trovano in una condizione di aver subito vittime, quindi aver subito violenza, e non sono adeguatamente preparati i soggetti che dovrebbero invece immediatamente soccorrere o comunque immediatamente portare i primi aiuti e illuminare la strada, il percorso da fare. Questo è quanto. Allora, abbiamo già detto chi c'è stasera con noi e diamo la parola intanto a Cinzia, che ci racconterà brevemente la storia, perché è la storia. Allora, intanto ciao, buonasera a tutti, a tutte, tutte e tutti. Intanto devo fare un piccolo preambolo, dunque la storia che mi riguarda perché sono la zia affidataria di una ragazza adolescente che ad oggi ha 14 anni. Sono affidataria di mia nipote dalla fine di giugno scorso, quindi tra poco faremo un anno di vita insieme. Mi sono ritrovata ad essere affidataria di mia nipote in modo molto veloce, cioè nel senso, mia nipote, devo fare un piccolo preambolo su qual era la sua situazione prima, insomma, per vari motivi familiari non poteva essere cresciuta dai suoi genitori naturali, quindi diciamo che è cresciuta con i nonni paterni. A un certo punto c'è stato un problema di tipo di salute dei nonni e quindi si è reso necessario trovare una famiglia che accogliesse mia nipote, ed è stata trovata in un dei parenti lontani che vivono fuori Roma, in un'altra provincia, e quindi mia nipote è andata a vivere con loro, una famiglia dichiarata tra l'altro in grado di poter adottare, perché non poteva avere figli propri e quindi avevano i servizi, insomma, della provincia in cui vivo hanno dichiarato che potevano anche adottare. E so che normalmente frequentano una casa famiglia dove vanno a prendere i ragazzini, li portano fuori la domenica, eccetera, diciamo quella è la classica famiglia buona italiana. E a giugno, cioè quando mia nipote, appunto prima di venire da me, succede che a giugno mi chiama mia nipote improvvisamente e mi dice che vuole che deve tornare a Roma e mi chiede se la posso andare a prendere. Ovviamente faccio un giro di telefonate per capire che cosa stesse succedendo. Mi si dice che questa famiglia con cui era, quindi questi miei lontani parenti, si stanno per separare per problemi tra loro, e che non la possono più tenere, ed è una cosa velocissima, cioè il lunedì mattina mia nipote aveva addirittura l'esame di terza media e quindi fatto quello doveva subito sparire. Ovviamente io la prima cosa che ho fatto, mi sono imbarcata, ho preso la macchina, sono andata a prendere, le ho fatto fare l'esame e l'ho portata con me a Roma. Qui la faccio un po' breve perché sennò non arriviamo più. Passa qualche mese e a un certo punto io metto in punizione mia nipote per una cosa che aveva combinato come tutte le tredicenni all'epoca e le sequestro il cellulare, quindi le tolgo questo cellulare e per la punizione, diciamo, e comincio a leggermi tutto questo cellulare e scopro una corrispondenza fittissima, ma siamo al ritmo di almeno un sms ogni mezz'ora, questo le veniva chiesto, con il lui della coppia affidataria con cui è stata prima, cioè stata per 6 mesi. Un carteggio virtuale praticamente su Facebook, su tramite SMS, su Ask, per quello che ho potuto vedere io, appunto fittissimo, dove veniva chiesto a mia nipote che cosa faceva, che cosa non faceva, cioè voleva sostanzialmente che lei dicesse dov'era in qualsiasi momento, no? E quindi mi rendo conto che in quei mesi con cui mia nipote è stata con me ha vissuto una sorta di vita parallela, perché faceva sempre riferimento a quest'altra persona, e il tono dei messaggi erano di due fidanzati, sembravano, cioè non sembravano il tono di un messaggio di un cinquantenne, di un ultra cinquantenne con una ragazzina di 13 anni, per cui allarmata mi rego ovviamente ai servizi sociali dai quali ero già stata, insomma, per cui avevo già fatto una prima richiesta di affidamento io di mia nipote. Mi reco ai servizi sociali, questo agli inizi di ottobre, mi pare del 7 ottobre, consegno questo cellulare, glielo faccio leggere, e quindi sono molto preoccupata perché avevo cominciato a intuire che ci fosse qualcosa che non andava. Più che altro forse in questo caso ho peccato molto di ingenuità da parte mia, essendo completamente fuori da alcune logiche, non c'ho proprio, o era solo forse una difesa, per cui avevo pensato, cioè al peggio, ma pensavo, no, magari non è successo nulla, ma soltanto, no, c'è una sorta di innamoramento, non lo so, insomma qualcosa comunque di poco chiaro, ma che non era successo poi nulla nei fatti. Cosa che ovviamente io ci ho messo un po' di, ci ho messo almeno 3 giorni per leggere tutto il cellulare, e alle fine dei 3 giorni mi sono venute delle macchie alle gambe immediate, cioè quando ho finito di leggere il cellulare, e quindi ero molto preoccupata e molto agitata. E quello che ho fatto appunto è stato consegnare ai servizi sociali, i quali hanno fatto partire una lettera per la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. E queste ci hanno messo un po' di tempo, dal 7 ottobre, perché comunque la lettera andava fatta, eccetera, e poi partiva. E gli sms non erano di contenuto esplicitamente sessuale, però alludevano in continuazione, insomma era chiaro che c'era una relazione. E nei giorni successivi, questo dico anche un'altra cosa a proposito delle istituzioni, cioè questo accade appunto i primi di ottobre, il 23-25 ottobre, non ricordo esattamente la data, ho l'udienza per l'affido, il giudice che tiene l'udienza non è al corrente dei fatti, cioè nel senso che questa lettera della Repubblica, che era partita per la Procura della Repubblica, al giudice non era arrivata, che sembra già mi lascia, cioè mi perplima alquanto, perché comunque, cioè voglio dire, è un'udienza per un affidamento comunque. E nel frattempo mia nipote aveva fatto 14 anni. Mi arriva nei giorni successivi, poco dopo l'affido, quasi proprio 2-3 giorni dopo, mia nipote chiama una sua ex educatrice e si confida con lei e le racconta esattamente quello che era successo, cioè che praticamente quest'uomo, da quando lei era arrivata a vivere con loro, in casa loro, aveva praticamente abusato di lei quasi subito, diciamo dopo un mesetto che stava con loro, ha abusato immediatamente di lei, con rapporti completi reiterati nel tempo, cioè in tutti e 6 mesi, e avevano instaurato, lui aveva instaurato innanzitutto un plagio proprio rispetto a mia nipote, la quale ovviamente, avendo un vissuto alle spalle anche abbastanza pesante e di mancanza di punti di riferimento forti e continuativi soprattutto, è stata, diciamo, è caduta proprio nella tana del lupo cattivo, insomma, cioè esattamente come il titolo della trasmissione. Ovviamente è stato semplicissimo raggirarsela, no, e portarsela, diciamo, dalla sua, e quindi quest'uomo si è preso questa bambina, perché appunto ha 13 anni, come amante in casa, di nascosto, dalla moglie con la quale appunto convivevano entrambi. E per farla breve, mia nipote appunto parla con questa educatrice, la sera dopo, spinta anche dall'educatrice ovviamente, parla con me, quindi mi racconta anche che era venuto a Roma senza il mio permesso questa persona a prenderla a scuola di nascosto. Io ovviamente mi allarmo molto, e il lunedì mattina, il 3 novembre, vado direttamente al commissariato, quindi alla polizia, e faccio una denuncia, e qui si apre un iter che è abbastanza sconvolgente, perché allora io di mio ero già sconvolta, perché può accadere a chiunque una cosa del genere, quindi non sapevo bene dove mettere le mani, però vengo a conoscenza di un fatto grave e quindi vado alla polizia. Alla polizia racconto tutto, una lunghissima denuncia di un sacco di pagine, mi dicono: vabbè, non si preoccupi, tempo qualche giorno la chiama il magistrato e le dice che cosa bisogna fare, tant'è che io chiesi addirittura, le devo far fare una visita medica, una visita anche ginecologica, no, per capire, e mi dicono no, perché il magistrato disporrà lui a breve, in poco tempo. Questo il 3 novembre. Arriviamo alla fine di novembre e io ancora, cioè, non avevo nulla, cioè nel senso, a me la polizia non mi ha più chiamato, io ho provato a chiamare, mi hanno detto di aspettare e basta. Nel frattempo Nel frattempo è andato avanti l'incidente, il 5 c'è stata il 5 dicembre l'audizione di ASE, quindi a un certo punto mi chiamano e mi dicono c'è l'audizione protetta e quindi niente, fa questa cosa alla questura centrale. Dopodiché ancora però a me non mi dicono assolutamente nulla. So che lui, quindi questo l'affidatario pedofilo, la contattava in tutti i modi contemporaneamente, cioè nel senso che le scriveva su Facebook, le scriveva su altri social network, mail, tentava quindi di contattarla. Quindi ho cominciato a fare una serie di screenshot di tutti questi tentativi di contatto, li mandavo all'avvocato e ho continuato a fare altre denunce, perché veniva a sapere che aveva telefonato ad amichetti di mia nipote per sapere di mia nipote, per cui io mi recavo alla polizia e facevo seguiti di denuncia. E sempre mi dicevano non si preoccupi. In uno di questi messaggi lui diceva ti vengo a prendere a scuola perché non mi rispondi e quindi io non la mando a scuola, e inizia un periodo in cui tra l'altro io l'accompagno tutte le mattine a scuola, cominciamo a fare dei turni per andarla a prendere, per portarla, insomma un incubo praticamente che dura qualche mese, finché verso gennaio io inizialmente ovviamente avevo una sorta di timore, cioè mi ero più messa nella parte diciamo della vittima, un po' per tutelare mia nipote il più possibile, un po' anch'io non sapendo cosa fare mi sentivo, no, cioè invasa da tutta questa storia. A un certo punto mi sono un po' raddrizzata le mani, cioè tirata sulle maniche come si dice, e ho detto basta, mi hanno rotto tutti quanti, cioè visto che nessuno fa niente faccio qualcosa io, per cui ho contattato io direttamente lui, ho detto di stare lontano da mia nipote, ho contattato la moglie dicendogli appunto di stare lontano da mia nipote, ho avvertito tutta la cittadina che doveva stare lontana da mia nipote, quindi ho preso diciamo un po' in mano la situazione, ho raccontato alla madre, che sarebbe poi mia sorella, quello che era successo, perché fino a quel momento io volevo tutelare anche lei. La madre ha dei problemi di ordine psicologico e quindi volevo tutelare mia sorella in tutto ciò, e arriviamo a marzo e finalmente mi arriva una notifica per l'incidente probatorio, quindi diciamo dal 3 novembre che ho fatto la prima denuncia l'incidente probatorio arriva a marzo, nel frattempo praticamente il nulla. A marzo, 23 marzo mi pare, incidente probatorio viene rimandato, quindi io mi rago al tribunale, prendo un treno eccetera eccetera, ma rimandiamo perché per un cavillo legale, cioè nel senso non si sa se l'affidatario poteva nominare un avvocato. Quindi lo rimandano di un mese, decidono che io, l'affidataria, non potevo nominare un avvocato che tutelava mia nipote, ma che l'avrebbe dovuto fare chi deteneva la patria potestà, cioè mia sorella con i problemi psicologici che ha. Decidono questa bella cosa, quindi significa di rimandare per un altro mese, di nuovo un nuovo incidente probatorio il 20 aprile, ci presentiamo a questo incidente probatorio, io, mia nipote e la madre di mia nipote, e qui il giudice ci dice che lo psicologo nominato dal tribunale non si è presentato, non si sa perché non si è presentato, quindi avevamo una possibilità, o un ulteriore rinvio o far testimoniare mia nipote dentro l'aula insieme a tutti praticamente, quindi pubblico ministero, GIP, avvocati e imputato, coperto da un separè. E così è stata, quindi così è andata. E questo è quanto, cioè nel senso questo è quello che è successo diciamo tecnicamente almeno al 20 aprile. L'ultima cosa, abbiamo avuto il 10 aprile una diffida, cioè lui non si può avvicinare, però ci tengo a precisarlo, 5 mesi e qualche giorno dopo dalla data della prima denuncia alla polizia. Ok, grazie, perché la storia è lunga e quindi non era possibile ridurla, cioè ulteriormente, quindi Cinzia ci ha raccontato la storia. Allora adesso qualche domanda secca a Cinzia e poi andremo a parlare con Antonella, sì, con Antonella e con Carla. Intanto un breve stacco musicale, un pezzo musicale e poi risaremo in studio. Ascoltiamo ora Because the Night di Patti Smith. can understand. Desirous hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Eccoci qui di nuovo in onda. Avete sentito dalle parole di Cinzia una storia terribile, una storia purtroppo non nuova per noi e non nuova per voi, piuttosto ordinaria. Una storia ordinaria nella sua atrocità. Una ragazza, una bambina che avrebbe appunto dovuto essere tutelata da una persona, la quale persona invece approfitta di lei. Sono storie appunto purtroppo comuni. Quando Cinzia è andata a prendere la ragazza a casa del lupo cattivo, ha trovato ovviamente l'entourage del lupo cattivo. E prima lo ha accennato Lucilla, lo ha introdotto il discorso rispetto alla connivenza purtroppo delle donne rispetto a situazioni di questo tipo. Allora io voglio domandare a Cinzia chi c'era insieme al lupo cattivo, anzi forse il lupo cattivo in quel momento non c'era perché giustamente si era ben nascosto nella tana, e lei si è trovata di fronte a tre persone, tre donne della famiglia, tre donne sì. Conniventi. Ma ci vuoi raccontare che atteggiamento hanno avuto queste donne? È stata un'esperienza veramente strana che io ho vissuto anche molto visceralmente, nel senso che ovviamente ero molto preoccupata, agitata, non sapevo nulla, no? Certo. Quindi immaginiamo insomma la mia ignoranza. Arrivo, mi faccio un viaggio innanzitutto di 2 ore in macchina guidando, quindi la mattina mi chiama mia nipote, io mi metto in macchina, capisco che c'è qualcosa che non va, cioè, e quindi decido di andare a prendere subito, cioè forse anche un po' inconsciamente, nel senso che mi sono un po' buttata nella cosa. Arrivo e mi trovo in questa situazione, cioè nella casa della madre del lupo, quindi diciamo della donna anziana del lupo in cucina, classico scenario del sud, tipica cittadina del sud. In cucina trovo sedute la moglie del lupo, la madre e una cugina e mia nipote. Io arrivo, la moglie parla e dice quello che già mi aveva detto al telefono, dicendo che appunto loro si erano separati e non potevano più tenere Asia. Però io sento questo clima molto teso, tesissimo, cioè proprio non so come dire, cioè avevo una sensazione netta e precisa che ce l'avessero con mia nipote, cioè che fossero incazzatissime con mia nipote, la quale stava seduta, non mi diceva niente, cioè non diceva assolutamente nulla, c'aveva un mezzo risolino, come a dire, no? Cioè succede qualcosa, no? Tu non sai, eccetera. Io faccio pochissime domande perché intanto già entrando mi ero resa conto che c'erano in anticamera tutte le valigie di mia nipote, c'era un non solo le valigie, ma ci tengo anche a precisare perché questa è una cosa, molte delle cose di mia nipote erano state messe in delle buste di plastica, chiuse praticamente nelle buste della spesa, perché mia nipote era stata chiamata in fretta e furia a fare le valigie, ovviamente una ragazzina di 13 anni aveva fatte come le sapeva fare, quindi le aveva buttate lì dentro. Un'altra cosa che mi colpisce è che a un certo punto una cugina, quindi la cugina della moglie del lupo, mi dice: mo però quando la riporti a casa la devi far vedere da qualcuno, la devi fare qualcuno di che sia bravo, no? E io devo, ripeto, cioè avevo questa sensazione di disgusto veramente addosso, ma il mio primo pensiero era stato andare via di lì il prima possibile, portando fuori anche mia nipote senza fare ulteriori scenate, anche perché non sapevo, non avevo proprio i termini per capire che cosa stesse succedendo, anche se capivo che era una situazione nella quale non mi sarei proprio voluta trovare. E questo ho fatto, cioè nel senso ho detto ok, va bene, siamo scese giù, ho preso mia nipote, abbiamo preso le valigie, abbiamo fatto un paio di viaggi, le abbiamo buttate in macchina, tutte le sue cose, tutte queste cose buttate lì dentro, e siamo andate ospiti da un'altra da qualcun altro, perché lei il giorno dopo doveva fare l'esame di terza, cioè, media, quindi tu in pratica ti sei trovata davanti tre donne che sicuramente sapevano, comunque sapevano, perché dopo io dopo avendo ricostruito tutto e tutti i dettagli, loro sapevano benissimo, avevano detto a mia nipote di non parlare, di non dire nulla, che la motivazione ufficiale del fatto che lei andava via era che loro si separavano, erano incazzatissime con lei perché il presupposto era che lei aveva provocato, certo, lui, come se ci avesse cioè 50 anni sta femme fatale che aveva in qualche modo provocato il povero stupido che era caduto. E anche, no? Questa, cioè, è una cosa nota e risaputa, insomma. Sì, sempre colpa, cioè, ovviamente delle donne, in questo caso una ragazzina di 13 anni, arrabbiatissime, la quale non hanno né pensato minimamente ovviamente a tutelare la ragazzina, cioè mia nipote, ma manca a me, cioè che comunque mi stavo facendo carico di qualcosa che, certo, io in quel momento non sapevo, no? Cioè non sapevo neanche dopo come avrei potuto aiutarle e quali sarebbero stati i possibili rischi di tutta questa cosa. E quindi appunto tre donne. Allora, tre donne, ora lo possiamo dire, omertose in questo caso. Allora, altre domande rapide, perché poi vogliamo sentire anche le altre nostre ospiti, e cioè hai parlato, hai detto varie volte nel racconto che hai sentito polizia, ma più o meno il numero delle volte che ti sei recata in polizia a raccontare i fatti, a fare delle denunce, qual è? Allora, denunce esatte proprio io ne ho fatte quattro, quindi dal 3 novembre, l'ultima è stata a metà, mi pare, marzo, insomma poco prima dell'incidente probatorio, 20 marzo, e quattro in tutto. Poi sono stata più volte però alla polizia anche per altre cose, per prelevare le notifiche, insomma per tutta una serie di altre cose. E, oltre alla polizia, io ho fornito alla polizia le foto della persona, cioè le sono andata a stampare, gliel'ho portate con le stesse foto, mi sono recata a scuola di mia nipote per farle vedere agli insegnanti se per caso si avvicina questa persona o entra, eccetera, cioè, tutta una serie di cose di cui mi sono fatta carico completamente sola, cioè dal punto di vista. Sì, e questo ce l'hai raccontato, infatti la solitudine anche delle donne, questo è un altro elemento. Allora, l'altra domanda, vai. Sì. Sì, Cinzia, quando ti sei recata al commissariato, insomma, quando hai interagito, diciamo, con le persone delle istituzioni, hai avuto modo di trovare sempre le stesse persone oppure di volta in volta ti trovavi davanti a situazioni nuove e quindi hai dovuto ricominciare tutto da capo? Perché sarebbe anche interessante sapere se in questi casi c'è magari la possibilità di farsi seguire sempre dalla stessa persona che ha appunto gli strumenti già in possesso per poterti seguire in una maniera adeguata. Allora, guarda, la prima volta, cioè la prima denuncia che ho fatto al commissariato, ho capito che c'era un nucleo di donne sì, all'interno del commissariato, però che in quel momento ovviamente non c'era. E quindi mi ha toccato, cioè, è toccato quello maschile. Devo dire che sono stati bravi, cioè nel senso che mi hanno ascoltato, insomma, hanno fatto quello che devono fare, cioè i verbali. È stata una cosa anche lunga, molto lunga, cioè io praticamente sono andata lì la mattina tipo alle 9, sono uscita da lì tipo alle 4 del pomeriggio. Quindi poi le volte successive invece tutte le pratiche erano state passate a quest'altro team di donne, alle quali più o meno ho dovuto ricominciare a raccontare un po' tutta la storia. Sì. Hai trovato un atteggiamento da parte dei funzionari delle forze dell'ordine di accoglienza in questa cosa? E guarda, il discorso è questo, cioè non è né di accoglienza né di niente, cioè a me non è stato detto niente, punto. Cioè questo è quello che... Ora, cioè, caliamoci nei panni, se ti succede una cosa del genere, no? Ma che ne so io a chi mi devo rivolgere? Io so solo che se devo fare una denuncia vado alla polizia, punto. Non so altro, perché e questi non ti dicono nulla, tant'è che io chiedevo, cioè, che cosa devo fare, una per tutte. A un certo punto lui scrive un messaggio nel mio volto dicendo ti vengo a prendere a scuola, e la polizia mi chiede ce la manda a scuola quel giorno? Ma non lo so, cioè, me lo dica lei, cioè non lo so, io lo devo decidere. Dico, è chiaro che io non ce la mando, cioè non ce la posso mandare, però vi ricordo che la scuola è un obbligo, cioè di legge, cioè non è che certo. Cioè, quindi è una cosa, cioè, che ricade, cioè non è che io posso non mandarla così. Cioè un'assenza totale, cioè allo sbaraglio, tant'è che ho cominciato a chiedere a destra e manca, amiche eccetera, che cosa devo fare, cioè chi posso contattare, qualcuno che mi possa spiegare come funziona, ma diciamo a livello istituzionale nessuno sapeva niente, cioè. E quindi qui scusa se ti rubo il miagolio di bocca, Rosina, e qui entrano appunto Antonella e Carla. La prima domanda la facciamo ad Antonella, che è di Bfree appunto, ed è quella la cosa che ha introdotto in questo momento Cinzia, e cioè che ci sono associazioni di donne che non sono istituzionali ma che rappresentano in realtà l'unico aiuto possibile, ed è stata ed è Antonella Petricone che fa parte di Bfree, e a Bfree si è rivolta attraverso una rete di relazioni che Cinzia ha, di amiche e di conoscenze, che si è rivolta. Quindi la prima domanda che facciamo ad Antonella è: che tipo di interventi attua Bfree in caso di maltrattamenti o abusi su bambine? E se ci vuoi dire anche velocemente che cos'è Bfree? Ciao a tutte, buonasera, grazie intanto alle compagne del CLR per questo incontro, per questa occasione di scambio che io trovo sempre molto importante, soprattutto quando si affrontano tematiche così forti relative alla violenza, e in particolar modo alla violenza sulle minori, sui minori. Allora, brevemente, che cos'è Bfree per chi non ci conosce? Bfree è una cooperativa sociale che si occupa di tratta, violenza e discriminazioni contro le donne, lo fa attraverso diversi servizi che sono attivi sul nostro territorio, su Roma in particolare. Attualmente io in persona, come Antonella Petricone, lavoro presso il servizio SOS Donna, che è un servizio antiviolenza gestito dalla cooperativa Bfree del comune di Roma, che si trova a Grotta Perfetta. Ovviamente per avere informazioni sui nostri servizi, per avere dei recapiti, qualsiasi tipo, insomma, di informazione abbiate bisogno, potete visitare il nostro sito e lì trovare tutti i contatti di cui avete bisogno, insomma potete chiamarci tranquillamente. Vi dicevo quindi che lavoro all'interno di questo servizio, che essendo un servizio antiviolenza accoglie chiaramente miriadi di situazioni legate appunto alla violenza. Per tornare alla domanda di Lucilla, che cosa fa Bfree, in che modo interviene nei casi di violenza? Allora, devo dire che sono 4 anni che lavoro presso il servizio SOS Donna, e casi di violenza su minori, sulle minori, ne abbiamo visti diversi, ma di diverse tipologie, per cui in particolar modo non mi soffermo su quello di cui abbiamo parlato finora, che Cinzia ci ha voluto così coraggiosamente raccontare. Non mi soffermo tanto esclusivamente sul gli abusi come tipologia di violenza, ma in generale di violenza sulle minori e sui minori come violenza anche assistita, che è una delle tematiche che a noi sta più a cuore, perché ci sta a cuore, perché è una delle dimostrazioni, conseguenze della violenza che ci arrivano in maniera più preponderante. Basti pensare infatti che la maggior parte delle donne che noi seguiamo sono accompagnate da minori, quindi vengono al servizio, si rivolgono all'SOS Donna e hanno minori a carico, e devo dire che la maggior parte di questi minori, dopo magari posso anche dire un po' così due numeri se abbiamo voglia di entrare un pochino nella casistica, almeno relativa ai nostri servizi chiaramente, la maggior parte di questi minori assistono alla violenza. E qual è la grande problematica che ci troviamo immediatamente di fronte? La problematica di far riconoscere questa violenza, di farla, di definirla come tale, quindi di portarla allo scoperto, che poi è il grande problema della violenza, no? Quello di riuscire a, ad uscire allo scoperto, non solo per le donne ma anche soprattutto per i bambini, praticamente nominarla nella giusta maniera. Esatto, nominarla nella giusta maniera, perché se la si nomina nella giusta maniera si capisce anche in che modo si può intervenire, in che modo la si può affrontare, e si riescono a trovare delle strategie di tutela per le donne e per i minori, che come dire sono strategie che devono andare insieme, perché non si può aiutare un minore se non si aiuta la donna che sta dietro a quel minore. Questo, insomma, questa è chiaramente la nostra parola d'ordine, potremmo dire. E gli interventi quali sono? Lo dico brevemente: gli interventi sono quelli soprattutto di favorire una fuoriuscita dalla violenza da parte del nucleo, quindi della donna con il minore, in modo tale che non sia costretta questa donna a dover ricorrere necessariamente a degli iter legali o istituzionali. E questo perché? Non perché non crediamo che ci possa essere un intervento istituzionale o legale efficace. Ce lo auspichiamo ogni volta, ma poiché sappiamo qual è il contesto in cui queste donne si muovono, e tornando proprio a quello anche che diceva prima Cinzia, poiché sappiamo quanta solitudine accompagna i percorsi di fuoriuscita delle donne, noi cerchiamo di lavorare affinché le donne si allontanino prima di tutto da situazioni di violenza. Dopodiché, nei casi più estremi, quelli che richiedono anche il nostro intervento come servizio pubblico, chiaramente procediamo a delle segnalazioni anche noi come servizio presso la procura del Tribunale dei Minori, ma proprio di fronte a dei maltrattamenti evidenti che chiaramente non possiamo non prendere in considerazione, verso cui abbiamo una responsabilità precisa. A questo punto volevamo fare una domanda a Claudia. A Carla, scusate. In realtà sono un po' intimorita perché c'è una falena in radio, sappiate. Se sono un po' sconnessa è per questo motivo. E qui è Mrs. Coraggio. Mrs. Coraggio sono io. Allora, nel caso abbiamo sentito le difficoltà che Cinzia ha trovato nel rivolgersi appunto alle istituzioni, qual è l'iter esatto da seguire in caso di violenza sulle minori o sui minori? Che cosa deve fare una privata cittadina che si trova testimone di una situazione di questo tipo? A chi si deve rivolgere? Ed esiste un corpo? E se esiste appunto un corpo preposto all'assistenza in questi un corpo, insomma un'istituzione, un'equipe, una... Sì, va bene. Intanto grazie dell'invito. A chi si rivolge? Allora, esistono delle sezioni specializzate. Attualmente noi abbiamo la quarta sezione della squadra mobile, che comunque si occupa proprio di questo tipo di reati, quindi reati contro i minori, e ovviamente intervenire attraverso una squadra, diciamo un nucleo, un reparto specializzato, è sicuramente molto più efficace che, come è il caso invece di Cinzia, rivolgersi a un commissariato locale. E quindi da qui c'è un primo problema che riguarda la formazione delle forze dell'ordine a livello locale, perché è normale che una donna non può sapere dell'esistenza di un reparto specializzato, salvo che non si consulti prima con un legale, e quindi si trova di solito a rivolgersi legittimamente al commissariato di zona. E qui abbiamo assolutamente delle, addirittura questo nucleo cui faceva prima riferimento Cinzia, in realtà sono delle poliziotte volontarie che magari si fanno carico di prendere questo tipo di denunce e poi cercano di diciamo di portarle avanti con le carenze del caso, nel senso che comunque non si ha un'adeguata formazione delle forze dell'ordine. Questo è un primo problema molto molto grave. A livello di tempistica, quindi il livello, c'è da dire che la storia di Cinzia, no, Cinzia ci ha raccontato 4 mesi, e 4 mesi per la giustizia italiana è quasi un tempo record, e questo purtroppo purtroppo dobbiamo dirlo, mancano tribunali, sezioni specializzate di tribunali. Quindi se si è fatto, diciamo, un passo verso le sezioni specializzate nel campo della polizia giudiziaria, non si può dire lo stesso dei tribunali, che diciamo a livello a Roma, diciamo, siamo più fortunati perché c'è comunque un pool di magistrati specializzati che si occupa di antiviolenza e quindi abbiamo la possibilità di avere dei tempi molto stretti. Cinzia ha dovuto aspettare per un divieto di avvicinamento del pedofilo, ha dovuto aspettare quasi 5 mesi. Qua a Roma, diciamo, nel giro di un mese si riesce ad ottenere. Certo, un mese è sempre un tempo molto lungo, soprattutto per le vittime, e quindi c'è questa ulteriore carenza. Poi nella storia di Cinzia ci sono tutta una serie di cose, non solo emergono proprio con una drammaticità tutte le conseguenze, la stigmatizzazione della vittima, il fatto l'adultizzazione, l'averla costretta a parlare con 4 donne, l'averla colpevolizzata quali fosse lei la responsabile, essere stata tacciata di rovina famiglie, la solitudine di Cinzia, cioè ci sono una serie di cose che ritornano molto nelle storie di abusi su minori. Dall'altra parte c'è una carenza strutturale del sistema minorile. Noi abbiamo un tribunale per i minorenni, nel caso di Cinzia, ma in tantissimi casi che rimane totalmente inerte. Quindi anche questo, il fatto che il giudice minorile non fosse informato di tutto quello che c'era stato prima, quindi della segnalazione, anche la segnalazione da parte dei servizi sociali, no? L'hanno dovuta fare congiuntamente ed è stata Cinzia alla fine a denunciare, quando invece dovevano essere i servizi sociali a denunciare, mentre si tende sempre a non volersi prendere la responsabilità, perché anche in questo caso c'è mancanza di formazione. Se un assistente sociale denuncia una situazione, non rischia di incorrere, come si pensa comunemente, nel reato di calunnia, no? Cioè chi parla addirittura di diffamazione, no, perché il fatto di esercitare un pubblico servizio, è sufficiente che un assistente sociale abbia fondato motivo di ritenere che si stia consumando un reato procedibile d'ufficio, quali le violenze sessuali sui minori, per poter intervenire. Non è passibile di denuncia, c'è invece una paura, c'è una resistenza, si preferisce mettere in prima linea la persona come Cinzia, che è coinvolta, si deve far carico di tutto e vive su di sé le difficoltà di muoversi e la solitudine. Scusami per chiarirmi, quindi nella sostanza Cinzia avrebbe potuto ottenere già da subito un'ordinanza restrittiva. Allora, il caso di Cinzia, perché io non l'ho seguito personalmente, però lo conosco perché poi l'ho passata a una collega che lavorava in zona, sì. E ha avuto una difficoltà in più, cioè c'era un problema di competenza territoriale, cioè che purtroppo, sì, i fatti non erano di competenza della procura di Roma, sì, ma di un'altra procura, e quindi questo ha fatto sì che passasse un ulteriore tempo, l'arco, sì, di tempo che spiegava prima, da novembre a gennaio, 3 mesi. Io all'epoca seguivo Cinzia, abbiamo bombardato la procura di memorie per informare di tutto quello che stava succedendo, portando noi su nostre iniziative carteggi di queste email che erano veramente sconvolgenti, perché si parla proprio di un rapporto d'amore, come se la nipote di Cinzia fosse una trentenne, una 35enne, e quindi abbiamo fatto tutto di nostra iniziativa per fare in modo che si trasmettesse tutto senza ritardo, e il senza ritardo ci ha portato poi comunque a questi 3 mesi. Quindi che cosa manca? Velocemente chiudo. Il problema del nostro, diciamo, dell'Italia è che ratifichiamo le convenzioni europee ma poi non le riusciamo ad applicare. Allora, come la convenzione sul femminicidio è stata applicata in modo imperfetto con la legge 119, così la convenzione di Lanzarote, che si occupa di questi problemi, è stata disapplicata per certi aspetti, cioè si pensa di inasprire le pene, si pensa a introdurre anche delle modifiche dal punto di vista sostanziale con l'introduzione di nuovi reati, che per carità sono utili, però noi abbiamo comunque una buona legge, sebbene di 20 anni fa, che è quella del 96, e questo va tutto bene. Quello che non si pensa è intervenire sulle procedure, cioè l'articolo 30 della Convenzione di Lanzarote dice che questo tipo di procedimenti devono avvenire senza ritardi, in modo veloce. Questo non è stato fatto. Così come la legge sul femminicidio diceva che questi procedimenti hanno, nella fase del processo, diritto ad avere una prelazione, quindi ad essere trattati per prima, e di fatto è poco applicata la norma, è sempre devoluta alla sensibilità del singolo giudice, così la Convenzione di Lanzarote diceva: velocizzate le indagini. E questo purtroppo non è stato fatto, addirittura si sono attribuite le competenze alla procura distrettuale, che è un organo maggiore, più grande, perché si ha la cattiva usanza in Italia di considerare che se si delega un organo più grande, allora le cose possono andare meglio, cioè in termini di efficacia investigativa è meglio. È l'esatto opposto, perché ufficio grande, più lavoro, carico di lavoro, carenza di organico e quindi lentezza. Quindi è un cane che si morde la coda e... Posso aggiungere una cosa velocemente sulla questione della competenza territoriale, sì. Perché questa solfa, che in Italia è molto tipica, no? Cioè non si sa mai di chi è la competenza, è stata ripetuta più volte anche dai servizi sociali, cioè per due ordini di motivi. Il primo è che quando io ho preso a giugno mia nipote, me la sono andata a riprendere, i servizi sociali di Roma non dicevano: noi non siamo più competenti perché non abbiamo più la competenza territoriale. Perfetto, che okay, non eravate, ma adesso che facciamocelo, io sono a Roma, quindi con qualcuno devo parlare. Carico, uno, certo. Due. E a un certo punto io inizialmente ho vissuto con mia nipote, e lo dico, in una stanza per mesi, cioè io e lei in una stanza, perché io vivevo per conto mio in una stanza in affitto e insieme ad altre due ragazze, quindi ho convissuto con mia nipote nello stesso letto, nella stessa stanza, chiuse lì, e non nel municipio dei servizi sociali dove mia nipote era cresciuta, e quindi c'era il problema della competenza, cioè del territoriale rispetto al municipio, no? Cioè se quale municipio era? Scusatemi l'espressione, sti gran cazzi di quale municipio è, stiamo parlando di una violenza su un minore, adesso qual è il municipio competente a me, no? Certo non è un problema mio, cioè non è che può ricadere su di me, quindi anche questo, cioè, è una cosa che lascia veramente atterriti, cioè sembra di parlare due lingue completamente diverse, cioè tu vai a dire che c'è stata una violenza sul minore e poi ti rispondono di chi è la competenza, ma come di chi è la competenza, cioè non è quello che mi serve, no? Né a me né alla ragazzina soprattutto. Sì, diciamo che il problema della competenza da un punto di vista di principio è valido, il problema è che si ha in questi casi un gioco a scaricarsi il barile, nel senso no, sta a me, no, sta a te, perché c'è il tentativo di deresponsabilizzazione molto forte, perché sono appunto casi spinosi che i servizi sociali non vogliono. Secondo me il tentativo anche di, perché a me poi è venuta l'idea, cioè se io non la facevo sta denuncia, mi risparmiavo un sacco di pene, cioè nel senso proprio fino qui, adesso lasciamo perdere che io non avrei potuto non farla, no, per come sono fatta io e perché secondo me punto andava fatta e basta, però è uno dei motivi per cui non si denuncia, questo va detto, cioè per mesi si vive in una sorta di incubo, esatto, e uno effettivamente dice ma chi me lo fa fare, cioè non è una vita questa, e l'incubo è iniziato, adesso tra poco inizierà il processo, cioè non è che è finito, cioè la cosa andrà avanti per un sacco di tempo, cioè abbiamo 3 gradi di giudizio, insomma c'è un ordinamento che sarà una cosa lunghissima, insomma non è... Sì, e poi in ultimo quello che manca, scusate se mi sto prendendo tempo, è un sistema efficace di tutela alle vittime, nel senso che tutto quello che c'è, cioè questo lavoro viene delegato agli enti del privato sociale come BeFree, che quindi si muovono sì con progetti, diciamo con finanziamenti anche pubblici, però comunque è tutto devoluto all'auto-organizzazione, no? Ma invece manca proprio a livello nazionale perseguire quelli che sono principi sovranazionali, quindi garantire un sistema, certo, efficace di protezione e di assistenza. Solo un'ultimissima cosa, Cinzia ci ha detto che la ragazza non è stata seguita dai servizi, diciamo non le è stato dato un sostegno psicologico prima dell'incidente probatorio, perché altrimenti avrebbe potuto essere in qualche modo influenzata la sua testimonianza. Ti risulta che sia una prassi comune oppure no? No, anzi, adesso si ha non soltanto in sede di prima audizione, e per Cinzia è stato così, alla polizia si deve affiancare un esperto di psicologia, perché è stata una normativa introdotta con la legge sul femminicidio, con la 119, ma in più si deve garantire, e anche in questo caso la nipote di Cinzia non l'ha avuta, forse perché si trattava di una procura piccola, comunque una procura del sud, si muove comunque con dei si muove in termini diversi rispetto a Roma, dove più o meno siamo un po' più fortunati. Però anche l'audizione protetta, quindi le modalità dell'incidente probatorio, comunque sono delle modalità, quella del paravento è una modalità diciamo di semi protezione, non è una modalità di protezione totale, certo. Non c'è l'utilizzo dello specchio unidirezionale, non c'è stata la possibilità per Cinzia di rimanere accanto alla nipote, uh-huh. E soprattutto la presenza dell'esperta, che probabilmente non si è presentata, non si sa perché, ma anche perché a livello locale, a livello di centro cittadino piccolo, succede appunto che ci si conosce, e quindi tutta una serie di cose che insomma non dovrebbero succedere. Quindi ancora una volta parliamo di connivenze, mi dispiace perché spesso le psicologhe sono donne. E non so quanto tempo abbiamo, no? Abbiamo sforato, ma se avete ancora. Abbiamo sforato ampiamente. Devo dire che Antonella, nella prima domanda che le abbiamo fatto, ha toccato anche tutte le altre. Sì. E che le volevamo fare? Ma una precisazione ad Antonella la chiederei, e cioè ci ha descritto la casistica, ci ha descritta molto bene. Mentre quante denunce avete di questo tipo? Se avete come appunto associazione Bifree, avete vi siete prese la briga, visto che non viene fatto questo dalle istituzioni, se vi siete prese la briga, nonostante i pochi soldi che vi arrivano come finanziamenti pubblici, perché su questo si risica e appunto si rosica, se avete appunto quante denunce avete di questo tipo, se avete una casistica, non solo una casistica, non rispetto ai casi, ma proprio all'enumerazione, quante ce ne sono? Ma guarda Lucila, dunque rispetto proprio alle enumerazioni, no, non ci siamo messe lì a tavolino a fare proprio a costruire una casistica sui casi di denuncia che abbiamo, anche perché, come ti dicevo prima, quando parliamo di violenza in realtà dovremmo affrontare un po' tutte le tipologie di violenza che noi prendiamo al servizio, perché ad esempio sui casi di abuso devo dire non abbiamo tantissime denunce, mentre nei casi di maltrattamento, dove chiaramente all'interno del maltrattamento c'è anche appunto la violenza assistita che vi nominavo prima, dei bambini, pensate che il 63% dei bambini che vengono al servizio con le loro mamme sono vittime di violenza assistita, per cui la percentuale è alta, cioè più della metà. Allora in quel caso sì, le denunce chiaramente sono tante, ora numericamente non ti saprei dare un numero, però ecco, c'è una differenziazione e le cause un po' le avete già dette, insomma le avete sviscerate prima, sia Carla che Cinzia hanno a che fare con il sommerso, che chiaramente non arriva al centro antiviolenza ed è su quello che bisogna lavorare, ma anche attraverso momenti appunto di spazio, di parola come questi, se vogliamo, no? Cioè far circolare le informazioni, rassicurare le donne che ci sono dei luoghi in cui si può venire a denunciare, a nominare una violenza, ci sono dei luoghi di donne che si occupano di questo e che possono far fronte a tutta una serie di solitudini e di difficoltà. I luoghi sono appunto i centri antiviolenza, nello specifico parlando appunto di quelli che gestiamo noi, l'SOS Donna che nominavo prima, che è un servizio antiviolenza H24 che si trova a Grotta. Esatto, aperto 24 ore al giorno, e lo Sportello Donna, che è un servizio d'eccellenza della cooperativa Bifree, che si trova all'interno del pronto soccorso generale del San Camillo Forlanini di Roma, quindi proprio all'interno del triage del pronto soccorso, anche quello aperto adesso in maniera non continuativa come i primi anni, però durante il giorno, insomma, sono sempre presenti delle... numeri di telefono, io purtroppo ho una difficoltà a memorizzare i numeri di telefono, per quello che dicevo prima, che sul sito www.bifreecooperativa.org trovate tutto, però abbiamo l'avvocata, che ovviamente per il lavoro che fa ha una memoria di ferro, che mi sta appunto fornendo il numero dell'SOS Donna. Allora 06 50 43 302, quindi questo è il numero del servizio SOS Donna, 06 50 43 302. E a breve siamo, come dire, felici di annunciare, ci sarà l'apertura del centro antiviolenza comunale, che sarà gestito appunto da Bifree, quindi tra un pochino ci sarà un ulteriore servizio d'eccellenza, direi, perché è un centro residenziale di accoglienza, quindi ospiteremo, non faremo solo colloqui di sostegno e tutti i progetti di cui già ci occupiamo, ma ospiteremo anche donne e minori all'interno di questo centro. E prima di salutarci, anche Carla ha detto tutto, ha parlato della lungaggine, a che cosa è attribuibile, no? Tutte le pratiche, perché sono così lunghe, e ci ha detto anche perché, le domande che avevamo predisposto per te Carla, perché nel caso che abbiamo trattato stasera, la denuncia, cioè non è bastata la prima denuncia per ottenere immediatamente l'ordinanza restrittiva. Hai detto tutto, però se vuoi aggiungere qualcosa, che mi sembrava che tu volessi, di tua sponte. Sì, volevo aggiungere proprio una cosa rispetto ai dati. Diciamo che è importante, secondo me, dire che poco meno del 90% degli abusi sessuali avvengono in famiglia, quindi in un contesto di famiglia, e anche il 15% da soggetti estranei. Quindi questa è una prima riflessione sulla necessità di andare a monitorare la famiglia. Quindi la famiglia non deve essere un sistema chiuso, ma deve essere un sistema aperto, e questo si può fare solo con un controllo sul territorio da parte dei servizi sociali, comunque dagli organi deputati a farlo, quindi la scuola, l'attenzione. Bisogna sempre avere il coraggio di prendersi la responsabilità di denunciare anche al posto della persona, come Cinzia, che poi si trova appunto ad essere un genitore affidatario, diciamo, per necessità. E il secondo riguarda invece il genere della vittima. Bisogna dire che circa il 68% riguarda le bambine e un 33,8% riguarda invece i bambini. Questo è importante. A questo punto io vorrei ringraziare i nostri ospiti Cinzia, Antonella e Carla. E questa sera ovviamente ci siamo scambiate delle informazioni, abbiamo raccontato una storia, la nostra discussione ovviamente non è stata esaustiva, speriamo di avere dato degli input e appunto speriamo anche di avere in qualche modo incoraggiato un certo tipo di atteggiamento, appunto come stava dicendo poc'anzi Carla, c'è bisogno di presa di coscienza rispetto a situazioni di questo tipo, c'è bisogno di denunce, c'è bisogno di raccontare, c'è bisogno di far circolare le informazioni. A questo punto io direi soltanto una cosa, ricorderei a tutte le ascoltatrici e anche a qualche raro ascoltatore che siete state all'ascolto di una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, lo dovevamo dire prima, ma in questo caso mai veramente una tale calamità. Esatto, che trasmette ormai da tanto tempo. Dal 1997. Esatto. Pensa, avevi i calzoni corti. Esatto, anche quelli avevo, e che trasmette all'interno del martedì femminista e lesbica autogestito sugli 87-900 MHz della Linda Rossa. Se ci volete contattare, se volete riascoltare la trasmissione, lo potete fare e potete andare sul sito di Radio Onda Rossa, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrdp.it, e il resto mancia. Perfetto, allora ancora grazie a Cinzia, a Carla, Antonella, grazie a Stefania che ci ha fatto la tecnica, Rosina e Lucilla vi salutano e tra 15 giorni. Buonasera a tutte. Sigla. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me, yeah.